Guarda l'ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani dal disco dei No Keys dal titolo di Regency. Come si chiamava questa canzone? Dolore Dolcissimo, l'ultima canzone in italiano che abbiamo scritto. E dopo questo disco, quali sono le prossime mosse che attendono la band per il futuro? Beh, innanzitutto a brevissimo l'ultima sessione di registrazione del video di Pretty Girl, che sarà il secondo singolo in uscita sulle radio sia italiane che svedesi. E poi abbiamo una collaborazione in corso con una disc jockey svedese che sta remixando la canzone che abbiamo appena sentito. E quindi proporremo una versione remix anche di questa canzone. E poi siamo in studio a lavorare sulle preproduzioni per il prossimo album. Già che... pronto il nuovo disco, insomma. Diciamo che è in lavorazione e ecco. siamo in attesa dei risultati che dovrebbero assolutamente... Insomma, noi siamo molto soddisfatti del lavoro che sta venendo fuori, insomma. Sì, ci incontreremo presto con Stefan Bowman, che ha prodotto The Regency fortunatamente ha anche accettato di produrre il secondo disco. Non si è ancora stancato. Non vediamo l'ora. No, esatto. È una buona notizia, dai. No, non vediamo l'ora di partire. Ora è il momento di quale canzone? The Trivial Captivity. Welcome to the Regency, the doom of opportunity, the trivial captivity of vacuum and security. The doom of opportunity, the trivial captivity of vacuum and security. Welcome to the Regency, the doom of opportunity, the trivial captivity of vacuum and security. Security. Il tempo scorre, noi ragazzi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS, su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio anche in streaming. Un grazie a No Keys per la partecipazione e un augurio di pronto ritorno in futuro per la presentazione di un altro CD. E a voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro album e un calendario di prossimi live. Per saperne di più su No Keys, digitate il nome No Keys su MySpace, ci trovate in prima posizione, e dato che ci siete, cercateci su Facebook. Per quel che riguarda qualche live, il calendario aggiornato di tutti i live è sul nostro MySpace. Avremo alcune date di nuovo qui in Italia durante l'estate e poi torneremo in Svezia e Danimarca alla fine dell'estate. Se la settimana prossima siete dalle parti di Busseto, ci trovate al Delta Palma. House, esatto, venerdì. Il brano per chiudere questa puntata? Il brano che abbiamo scelto è Morning, che è anche l'ultimo brano del nostro CD e quindi insomma sembrava appropriato alla chiusura. Jean-Luc e No Keys vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo quando avremo i veronesi Faccia Scura che presenteranno il loro primo CD intitolato Quanti ne sacrificheresti. Ciao! Settled, all was right.